Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, un format radiofonico che vi porta le voci, i fatti e le opinioni dalla galassia animalista, antispecista e vegan. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. La notizia della settimana, almeno fino a oggi, giorno in cui registriamo la puntata, è senza dubbio la conclusione del procedimento per animalicidio più seguito di quest'anno, terminato il 26 maggio con una sentenza storica. Ci stiamo riferendo al processo che si è tenuto a Paola, provincia di Cosenza, per la morte del cane randagio Angelo, impiccato e ucciso a bastonate da quattro ragazzi. Giuseppe Liparoto, di 22 anni, Nicolas Fusaro, di 21, Francesco e Luca Bonanata, rispettivamente, di 21 e 20 anni. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. Recita così l'articolo 544 bis del Codice Penale. Gli imputati in questo caso sono stati condannati a 16 mesi, che è il massimo della pena prevista quando si configura il rito abbreviato, che è quello che è stato scelto dagli imputati. Il giudice ha applicato poi una sospensione della pena subordinata alla esecuzione di servizi di pubblica utilità presso un'associazione di protezione animale. Significa che quattro supereroi dovranno andare a pulire gabbie nei canili o a disinfettare i bagni dei rifugi per animali, ammesso che qualcuno li prenda. C'è polemica in rete su questa sentenza, sia per la levità della pena, se confrontata a quella di un gesto simile nei confronti di un bambino, sia perché viene sostenuto che mettere questi individui capaci di azioni sadiche su un cane a contatto con altri animali sia scellerato. C'è chi ha detto come mettere un pedofilo a fare lavori sociali negli asili. Riprendiamo un commento di Francesca Sorcinelli, di Link Italia, che recita così. Dentro la sentenza di Angelo è stato inserito un cavallo di Troia a sfavore della giustizia, pericolosissimo e completamente distorto. Chi maltratta gli animali deve essere interdetto dal possederne e dall'avvicinarsi a loro, finché, se mai lo sarà, non potrà essere dichiarato abilitato con percorsi zoo-antropologici mirati. Occorre dare la possibilità a chi ha sbagliato di poter riflettere, crescere, formarsi e imparare dagli errori. Ma non possono essere previsti percorsi di volontariato fine a se stessi con animali o persone di categorie deboli, ma altri percorsi. Se proprio dovevano essere indirizzati a lavori alternativi al carcere, che almeno venissero messi a lavorare in una discarica di rifiuti. Lunedì 29 maggio, Rosa King, guardiana di uno zoo, è stata uccisa da una tigre. Il dramma è avvenuto in Gran Bretagna, all'Hamerton Zoo Park, vicino ad Huntington, nel Cambridgeshire, riferisce la BBC. Secondo quanto ha riferito la polizia, la tigre è entrata in un recinto dove c'era la guardiana. Purtroppo, la donna è morta sul posto. Aperto nel 1990, l'Hamerton Zoo Park ospita diversi animali, fra cui tigri della Malesia e del Bengala, oltre ad altri felini. Nell'ottobre 2008 era fuggito un ghepardo che poi è stato trovato da un bambino di 9 anni nel giardino di casa. Rosa King è stata definita una persona amabile, animata da una fortissima passione verso gli animali di cui si prendeva cura. Per chiudere tutti gli zoo, luoghi di sofferenza e prigionia indicibile, sabato 27 maggio scorso a Torino si è tenuta una manifestazione di protesta nazionale. La nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino, ha preso un treno per Torino ed è stata ancora una volta sulla notizia. Nella notizia. Attorno alla notizia. Sentiamo. Negli zoo, gli animali sono il monumento vivente alla loro sparizione. Così scriveva lo scrittore e critico d'arte John Berger in Perché guardiamo gli animali. Gli zoo nell'immaginario collettivo infatti sembrano appartenere al passato, a una memoria storica. A Torino però questo passato sta ritornando drammaticamente presente come un déjà vu, con la privatizzazione dell'ex zoo Parco Michelotti, un'area verde di 32.000 metri quadrati ora chiusa al pubblico, ma che per volere dell'amministrazione comunale, del precedente sindaco Piero Fassino e dell'attuale Chiara Appendino sembra destinato a trasformarsi in bioparco, un termine usato e abusato per ripulire in stile greenwashing realtà che celano gabbia e sfruttamento. Contro la realizzazione di questo progetto di privatizzazione affidato alla società Zoom, sabato 27 maggio sono scese in piazza a Torino migliaia di persone che hanno gridato forte la loro protesta. A guidare la manifestazione che dalla stazione di Porta Susa è arrivata proprio fino al Parco Michelotti, tante realtà appartenenti al coordinamento No Zoo, tra cui la promotrice SOS Gaia e la LAV di Torino che da tempo sta portando avanti questa battaglia. Sentiamo Gualtiero Crovesio, responsabile LAV Torino. Questo corteo ha delle ragioni locali molto forti. Si pensi al fatto che il Movimento 5 Stelle, che è maggioranza assoluta a Torino, è stato eletto lo scorso giugno sulla base di un programma che prevedeva in maniera molto esplicita un no a zoo, bioparchi e fattorie didattiche. Continua rispetto all'amministrazione Fassino precedente il progetto di aprire uno zoo a Parco Michelotti. Non c'è soltanto in ballo la partita della riapertura di uno zoo a Torino, ma c'è in ballo la partita della riapertura di uno zoo in una città simbolo del movimento antispecista e animalista in Italia, e crediamo che il fatto che possa riaprire uno zoo in questa città segnerebbe un passo indietro di 30 anni molto grave e rischierebbe di essere il primo di tanti passi indietro dal punto di vista del diritto degli animali a essere liberi e anche da un punto di vista più ampio legato alla salvaguardia dell'ambiente, degli spazi urbani, dei beni comuni, perché sia un no per Torino e per qualunque altra realtà locale nella quale si vogliono aprire nuove gabbie. Io credo fortemente nel fatto che questa possa diventare una campagna simbolo che possa portare ad allargarsi anche ad altre città, in generale al tema della liberazione degli animali da ogni prigionia e anche ad altri temi che non sono strettamente animalisti, ma che in linea con l'antispecismo possano coinvolgere anche altre realtà che non nascono dall'ambito antispecista animalista, ma che possono in qualche modo collaborare. Il retroterra, la cittadinanza è favorevole alla nostra battaglia, ma è difficile portare questa maggioranza ad esprimersi, quindi siamo qui anche per riaprire questa partita politica e di civiltà con i cittadini, per informarli e per coinvolgerli sempre più nel dire no a questo progetto, nel dire sì alla riapertura di un parco pubblico, nel dire sì alla liberazione degli animali da ogni prigionia, e speriamo che oggi sia un nuovo giorno per riprendere questa battaglia con forza. La partita oggi si riapre e si riapre con ancora più forza di prima. Ma cosa sanno effettivamente i cittadini torinesi di quanto sta accadendo nella loro città? Ne abbiamo raggiunto alcuni, sentiamoli. La manifestazione è bellissima, non ne ero a conoscenza e mi dispiaccio, Nemmeno ero a conoscenza di questa idea balzana di riaprire lo zoo. Lei non lo sapeva pur essendo di Torino? No, no. Quindi solo pensiero che si richiudono di nuovo in gabbia, quando finalmente a Torino era stata un po' eliminata questa cosa. Non vanno chiusi gli animali, vanno salvaguardati, difesi. Speravo in più persone io, avrei voluto una maggior mobilitazione della città di Torino, sinceramente. Torino come la percepisce questa cosa? Con indifferenza? Sì, secondo me è indifferente, anzi ci hanno anche insultato durante la manifestazione, quindi mi spiace perché in realtà dovrebbe interessare tutti i torinesi. La limitazione di aree verdi, parchi è comunque sempre un peccato. Per una cosa vengono... che poi limita la libertà di qualcun altro come gli animali. Signora, lei è di Torino? Sì. Sapeva di questa manifestazione? No, sapeva no. Dello zoo, dell'apertura dello lo zoo? Lo apprendo adesso, infatti sono venute quasi le lacrime. In fondo siamo anche noi animali e ci trattano come vogliono. E poi mi ricordo il parco Micalotti, quando c'era lo zoo, faceva un effetto tremendo. Proprio. Loro la vogliono proporre in una chiave moderna. Ma come si figuri, tanto è moderna, come una carcere moderna, no? Al corteo era presente anche Michela Brambilla, che ovviamente non ha perso l'occasione per fare la prima uscita pubblica in piazza del suo neonato partito Movimento Animalista, fondato con il beneplacito di Berlusconi. Per contro, in piazza c'erano anche gruppi locali come il collettivo antispecista e antifascista torinese. Sentiamo come hanno spiegato la loro posizione ai nostri microfoni. La nostra presenza qui è per dare proprio un'impronta e un segnale forte a livello politico, che ovviamente noi come intendiamo la politica è sganciata dai partiti, quindi per noi è molto importante considerare gli animali umani e non umani dal punto di vista politico. Comunque potrebbe rappresentare un antecedente per la privatizzazione di altre realtà di parchi che abbiamo qui a Torino, si parlava del galoppatoio per esempio. Oltre alle realtà locali erano presenti alla manifestazione anche associazioni come EMPA, LEAL, LIDA, OIPA e anche la LAC, Lega Abolizione Caccia, che si occupa in prima linea proprio di selvatici. Per questo bioparco tende a ricostruire ambienti che con Torino non c'entrano assolutamente niente. Sono ambienti esotici che stanno bene giustamente dove sono, ma qui non hanno nessun senso. È un precedente pericoloso. Roberta Marino, inviato a Torino per Restiamo Animali. E tu? Strisciando si potrebbe trattare di bisogno d'amore, meglio non dire. Stop. esotici sfruttati negli zoo di tutto il mondo, passiamo alla condizione dei selvatici nel nostro paese. Sempre lunedì 29 maggio all'associazione ambientalista Il Guardiano dell'Ombra, che opera nel Reatino, sono state recapitate alcune immagini di un lupo morto appeso per il collo. L'animale è stato ritrovato nel territorio di Pendenza di Città Ducale, in provincia di Rieti. Sulla corda usata per impiccare l'animale, qualcuno ha voluto lasciare un biglietto che recita più o meno così: mangiato pecore e vitelli, e non abbiamo avuto nessun rimborso. Grande indignazione suscitò il mese scorso la barbara e analoga uccisione di un lupo appeso a un cartello stradale a Suvereto, nel Livornese. Dura la presa di posizione da parte dell'ENPA. Restiamo in attesa di conferme da parte degli inquirenti, dice la presidente Carla Rocchi. La vicenda è comunque indicativa del clima fin troppo avvelenato contro i lupi e più in generale contro i selvatici che si respira ormai nel nostro paese. Secondo l'ENPA, il principale responsabile politico di questa situazione è il ministro Galletti, il quale, spalleggiato dalla fazione più estremista degli allevatori, è stato fra gli artefici di una vera campagna di terrore che ha finito per incendiare gli animi e che evidentemente ha fatto perdere il senso della misura. Fino a quando si parlava di uccisioni di animali, il piano lupo sembrava essere la prima emergenza del paese. Poi, aggiunge l'ENPA, una volta bocciata la norma ammazzalupi, affossata dalle regioni e da una campagna di mobilitazione senza precedenti, è finito nel dimenticatoio ed è stato insabbiato. Per questo l'ENPA chiede di calendarizzare il prima possibile nella conferenza Stato-Regioni l'approvazione del piano della gestione del lupo, depurato ovviamente dalla possibilità di uccisione, e chiede che ciò avvenga prima di una ulteriore escalation di sangue e di gesti emulativi. Ancora selvatici, ma stavolta ci spostiamo al nord, perché nel Bergamasco un padre ha sparato accidentalmente al figlio, ferendolo gravemente alla testa durante una battuta di caccia al tasso. Il genitore, 58 anni, imbracciava una carabina e si trovava in una zona di vigneti con i due figli. All'improvviso è partito il colpo che ha centrato uno dei due figli, di 34 anni, alla testa. Immediato l'allarme. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118, con il quale il giovane è stato trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco. Le sue condizioni sono gravi. Si tratterebbe di bracconaggio. La procura indaga. Get down, little Henry Lee, and stay. In that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La la la la la, la la la la lee. A little bird let down on him. In difesa del cibo è il titolo di un libro edito da Adelphi, uscito nel 2009, con cui l'autore Michael Pollan, noto giornalista statunitense, completa la sua diagnosi sull'alimentazione moderna, costata anni e anni di lavoro, viaggi, inchieste e scritture. Tratto dal libro è un docufilm che porta lo stesso titolo e che vorrebbe cominciare a riparare il danno fatto alla salute pubblica dalla cosiddetta dieta occidentale e dai suoi promotori, le aziende chimico-farmaceutiche, le aziende zootecniche, le trasformatrici, la grande distribuzione organizzata e infine i nutrizionisti che Pollan attacca duramente. in difesa del cibo sfonda la barricata creata dai media e dagli inserzionisti pubblicitari a difesa del loro monopolio su quello che deve essere proposto come l'alimentazione giusta. Dopo aver viaggiato in tutto il mondo, dopo aver analizzato i banchi di tantissimi supermercati, Pollan arriva a distillare alcuni facili principi che tentano di rispondere a una delle questioni più confuse e più urgenti del nostro tempo. Cosa dobbiamo mangiare per essere sani? L'industria alimentare, con la complicità della politica, ha distrutto la nostra alimentazione naturale, riducendo il cibo a un elenco di sostanze nutritive artificialmente suddivise in buone e cattive. E naturalmente è molto semplice far scivolare una sostanza nutritiva dalla lista dei buoni a quella dei cattivi, a seconda delle esigenze dell'agrobusiness e della zootecnia. Guardiamo molti video sull'alimentazione, sostiene Pollan, ma non sappiamo mangiare. Per questo è prezioso il suo lavoro, che indubbiamente aiuta a fare chiarezza nella selva della disinformazione alimentare. Eat food, not too much, mostly plants. Mangia materie prime non trasformate, soprattutto vegetali e con moderazione. Con questa raccomandazione, che in lingua inglese consiste in solo 7 parole, Pollan, già autore del bestseller Il dilemma dell'onnivoro, consegna ai suoi lettori il distillato del suo sapere. Dopo aver denunciato gli interessi dei colossi agroalimentari che inquinano le nostre tavole con le false verità propinate dai nutrizionisti, che tra l'altro sono mutevoli come l'alternarsi delle stagioni, Pollan sottolinea l'importanza di un'alimentazione sana e tradizionale. Da qui il suo semplice consiglio per difendersi da questo oceano di balle: non mangiare nulla che non avrebbero mangiato le nostre nonne. Nel dilemma dell'onnivoro, Michael Pollan aveva già smontato, una portata dopo l'altra, il pranzo che ci apparecchiamo ogni giorno, dimostrando che, a dispetto delle etichette, la maggior parte dei cibi che ospitiamo in tavola sono nocivi e tossici. Nel libro successivo, In difesa del cibo, appunto, e nel relativo documentario, Pollan va oltre, demolendo alla sua maniera brillante e imprevedibile una credenza perniciosa e ormai diffusissima, e cioè che a renderci più sani e più belli non siano gli alimenti che mangiamo, ma le sostanze che li compongono. Nel mondo immaginato dai nutrizionisti, ricorda Pollan, anziché perdere tempo a sbucciare e a fare a spicchi le arance, basterebbe assumere una quantità equivalente di vitamina C. Il rimedio sarebbe semplice, sostiene Pollan. Appunto, non mangiare nulla che la nostra nonna non avrebbe mangiato. In altre parole, cibo vero, meglio se poco e meglio ancora se verde. Sarebbe semplice se non sconvolgesse il credo dell'industria più potente e insostituibile del mondo, quella agroalimentare, che, come dimostrano le violente polemiche subito suscitate da questo libro, non intende arrendersi senza combattere. Fin qui abbiamo trovato tutto molto condivisibile, però c'è un'altra questione cruciale e per noi non meno importante della salute umana, che è la questione del mangiar carne. Pollan ovviamente sa benissimo che la carne fa male, ma si limita a sconsigliarne il consumo o a raccomandarla solo in modo sporadico. Conia il termine vegetariano moderato, che indicherebbe le persone che mangiano carne raramente. Ovviamente, da un punto di vista etico, questo concetto non regge. Se mangi carne, non sei vegetariano o vegano, e viceversa. Pollan, però, a riguardo, mantiene una prospettiva antropocentrica e salutista. È stato poi francamente deludente, da parte di una persona così bene informata, leggere un paragrafo in cui si sostiene addirittura che gli animali non soffrano, o almeno che non temono la morte come noi, perché, sostiene Pollan, non sono in grado di immaginare il futuro. Ho osservato le mucche che salivano la rampa di un mattatoio. Sembravano prive di paura o panico. Sembrava che non soffrissero affatto. In questa trasmissione abbiamo più volte dato spazio al blog Resistenza Animale e alle moltissime testimonianze di bovini scappati palesemente in preda al panico dai mattatoi. E nessuno può sostenere ragionevolmente che gli animali non soffrano e non provino terrore. Se esistono allevamenti in cui gli animali vivono bene, scrive Pollan, mangiano ciò che per natura dovrebbero mangiare e hanno solo un momento brutto in prossimità della morte, è possibile mangiare carne avendo la coscienza a posto. Michael Pollan, nostro contemporaneo, forse non ha letto un'opera scritta nel 1883 da Lev Tolstoi, intitolata Il primo gradino. Un'opera nella quale Tolstoi descrisse l'uccisione di un maiale a cui aveva assistito. «Io sono miope e non potei osservare tutti i particolari. Vidi solo un corpo roseo, come quello di un uomo, e udii le sue urla disperate. Ma il carrettiere vedeva tutto e osservava senza distogliere lo sguardo. Il maiale fu ripreso, rovesciato, finito. Quando le sue grida cessarono, il carrettiere sospirò profondamente e disse: «Ma non c'è un Dio?» Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Dal Piemonte con furore la ricetta di oggi, rivisitata in chiave vegan, ecco a voi la bagna cauda, un intingolo da servire caldo nel tradizionale tegame in coccio, accompagnata da verdure crude o cotte al vapore. Non lasciatevi spaventare dal quantitativo di aglio, una volta preparata la salsa resterete meravigliati per il suo gusto. Gli ingredienti per 4 persone sono 4 teste di aglio, 2 cucchiai di pane grattugiato, 2 cucchiai di olio di semi di lino, mezzo litro di latte di soia, un quarto di litro di olio extravergine di oliva, verdure di stagione crude e al vapore. Sbucciate tutto l'aglio e mettetelo in un tegame. Copritelo con il latte di soia e fatelo cuocere a fiamma bassa fino a quando gli spicchi non saranno ben morbidi. A questo punto scolate conservando il liquido di cottura. Impastate il pan grattato con l'olio di lino. Tritate l'aglio finemente e mettete in un tegame con l'olio extravergine di oliva. Aggiungete il mix di pane grattugiato e olio di semi di lino e mettete sul fuoco per una decina di minuti a fiamma molto bassa, mescolando fino a quando non otterrete una crema omogenea. Se alla fine dovesse risultare troppo forte per i vostri gusti, stemperate la salsa con un po' del latte che avete usato per cuocere l'aglio. Servite nel tegamino di coccio accompagnato con verdure di stagione sia crude che cotte al vapore, lasciandole però ben croccanti. Non avremmo mai pensato di poter parlare bene di un membro della famiglia Trump. Lara Trump, moglie di Eric, ha accettato di fare da testimonial per il Beagle Freedom Project, gruppo animalista che si batte per la difesa dei cani di questa razza, che vengono usati come cavie nei laboratori. Ma questa Lara, secondo te, è solo contraria alla vivisezione dei Beagle o è proprio per l'abolizione degli esperimenti scientifici sugli animali? Secondo me la prima che hai detto. Come membro della First Family, Lara vuole occuparsi dei diritti degli animali, ha detto il presidente del gruppo animalista, raccontando di aver conosciuto la nuora di Trump portando a passeggiare i cani a Central Park e di aver continuato poi a essere in contatto con lei attraverso i social media. I Beagle forse possono salvarsi, gli altri meno. Siamo in chiusura, ricordiamo le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata, i cui nomi sono Roberta Marino, Gualtiero Crovesio, Lorenzo Guadagnucci, Francesca De Matteis, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco detto Donald e Camilla Lattanzi detta Ivanka. L'appuntamento con la trasmissione Restiamo Animali è per la settimana prossima. Stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.